Ferrari, Lamborghini, Maserati. Altre case specializzate nella costruzione di macchine sportive di lusso sono la Ferrari, la Lamborghini e la Maserati. La Ferrari è specializzata in automobili sportive e da corsa. Enzo Ferrari ha fondato questa casa automobilistica, che porta il suo nome, a Modena nel 1929. Il suo logo è il famoso cavallino rampante. La vera passione di Ferrari è da sempre la corsa e dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale appare per la prima volta il team Ferrari sulla scena dei Gran Premi europei. La Ferrari è fino ad oggi l'unica squadra che ha partecipato a tutte le edizioni del campionato del mondo di Formula 1 e soprattutto quella con il maggior numero di successi. Vanta il record di 15 titoli di campione del mondo piloti, il record di 15 titoli di campione del mondo costruttori e, fino al 2015, il record di 224 vittorie nei Gran Premi di Formula 1.